non conosco naturalmente i motivi per cui il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero degli Interni, ha ritenuto di conferire la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Fabrizio Quattrocchi, un personaggio di cui pure non so molto, salvo il fatto che gli spetta tutto il rispetto dovuto a chi ha perso la vita in un paese ostile, scontando colpe e responsabilità che non sono certamente sue. Non so neanche perché di analoghe onoranze non siano stati giudicati degni né Enrico Baldoni né alcun altro degli ormai troppi connazionali che nell'antica Babilonia sono andati a farsi tragicamente ammazzare. Ma in ogni caso, naturalmente, è diverso dagli altri, come diverse sono le considerazioni che ispira. Immagino anch'io, come molti, che il Presidente, cui sono notoriamente cari i valori dell'identità nazionale, sia stato suggestionato soprattutto dalle ultime parole dell'ostaggio prigioniero. Da quel vi faccio vedere come muore un italiano, che registrato da un video impietoso è stato poi divulgato dai media in tutta la sua drammaticità. E anche se io personalmente quel documento avrei preferito che non fosse trasmesso, non voglio certo negare che si tratti di un'affermazione che fa onore a chi ha avuto la forza in quel momento di pronunciarla. Questo non significa tuttavia che gli italiani possano o debbano morire in maniera particolare. Muoiono, ahimè, come tutti gli altri, con coraggio se di coraggio sono dotati, senza se quel dono non è stato loro concesso. Qualcuno muore disperandosi, qualcuno con dignità, qualcuno con fatica e qualcun altro, i più fortunati al dire degli antichi, senza accorgersene nemmeno. Privilegiato in ogni popolo, in ogni paese, e chi sa trovare nelle proprie certezze, nelle proprie speranze, nelle proprie illusioni o semplicemente nella propria adrenalina la forza di esprimere in extremis almeno un'ipotesi sul significato di una vicenda, la vita di noi tutti, il cui significato ultimo è appunto solo quello che gli sa dare ciascuno dei suoi protagonisti. La raccolta delle ultime parole degli uomini famosi è un genere tanto diffuso in tutte le letterature proprio perché offre a tutti un modello a cui ciascuno spera a tempo debito di sapersi adeguare. L'atteggiamento di chi di fronte alla prospettiva dell'inevitabile annichilimento non abdica al compito squisitamente umano di esprimere, finché può ancora esprimerne, valori e significati. Il concetto, si sa, è di lontana origine stoica, ma è stato fatto proprio da tempo da tutta la cultura occidentale, laica o religiosa che sia, e per di più trova precise corrispondenze in molte altre tradizioni, come forse inevitabile vista l'universalità dell'esperienza cui in qualche modo rimanda. Onore dunque a Fabrizio Quattrocchi, che nella prospettiva imminente di venire brutalmente assassinato ha voluto e saputo legare il senso della propria vita all'orgoglio di essere italiano. È stata una scelta sua, e anche chi non la dovesse condividere è tenuto a rispettarla e onorarla. E tra gli impegni di chi la vuole onorare, naturalmente dovrà anche esserci quello da astenersi dalle sciocchezze, tipo dire che il riconoscimento presidenziale può giovare alla riqualificazione del ruolo delle bodyguards, o i vari tentativi di annettersi la frase in questione alla stregua di uno slogan politico qualunque. Il problema, in queste circostanze, e che gli stessi riconoscimenti ufficiali, medaglie comprese, corrono sempre il rischio di sembrare inadeguati, se non addirittura derogatori, proprio perché richiamano con innegabile brutalità coloro che vogliono onorare dalla sfera dei valori esistenziali a quella del banale dibattito di tutti i giorni. Fortunati, come dice il poeta, sono i paesi che non hanno bisogno di eroi, e ancora più fortunati quelli che sanno resistere alla tentazione di farsene una bandiera. Che sono su Gavi?